mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano. Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Purtroppo tutto, persino nella guerra terroristica, è comunicazione. Voleva terrorizzare Renzi e voleva dire ai suoi, oggi ha riunito la direzione del PD, che la comunicazione è fondamentale anche per i terroristi. Ha detto, certo, in modo inquietante, in modo allarmante, però persino loro fanno della comunicazione uno strumento così fondamentale anche per fare proseliti, per terrorizzare l'Occidente. Figuratevi nel PD, se non deve centrare nella politica o nel governo l'importanza della comunicazione. Questa è una metafora, insomma, che ha fatto Renzi oggi per parlare dell'importanza di una cosa che lui sta molto a cuore, per l'appunto la comunicazione. Parleremo e comunicheremo naturalmente non solo di questo questa sera, parleremo ampiamente di Libia naturalmente per quello che sta succedendo, e anzi vi chiederei, a seconda di quello che è il vostro livello di consapevolezza, di cognizione di quello che sta accadendo, quanto questa situazione che si sta aggravando in Libia vi preoccupa. Ci sono sempre i vostri due canali privilegiati per intervenire qui a Effetto Notte. C'è il numero per gli sms, che è il 349-238-6666, lo ripeto perché tanti mi dicono dillo piano, 349-238-6666, e poi è sempre lì quando la volete la pagina Facebook di Effetto Notte. Quanto vi inquieta, quanto vi fa paura quello che sta succedendo in Libia? Ne parleremo anche perché anche il ministro Gentiloni, anche Renzi, comunque Mogherini hanno detto l'Italia è piuttosto esposta di fronte a quello che sta succedendo con l'avanzata dell'ISIS. Poi naturalmente affronteremo anche altri temi. Ci sarà una novità di cui voglio parlare per quanto riguarda la vicenda annosissima dell'omicidio di Ilaria Alpi e del cineoperatore Rovatin. Ne parleremo dopo, parleremo anche di calcio, ci occuperemo di Grecia. Come è andata questa riunione piuttosto tesa dell'Eurogruppo? Non sembra che sia andata molto bene. Comunque, intanto, prima di approfondire tutti questi argomenti con vari ospiti, vi racconto come sempre una sintesi della giornata. Libia, Renzi frena sull'intervento e invita la cautela, prosegue intanto l'emergenza immigrazione, bombardamenti egiziani sulle postazioni dell'ISIS. Grecia, l'Eurogruppo lancia l'ultimatum, decida entro venerdì, ma il governo greco definisce assurde le richieste. La riunione del PD sulle riforme, Renzi dice, sono aperto al dialogo, ma no al do ut des. L'attacco a Copenaghen caccia i complici del killer, 2 per ora gli arresti, Catania sono 9 gli indagati per la morte di Nicole, ispettori ministeriali e regione al lavoro. Parma, ore decisive per la squadra che rischia il fallimento, mentre un imprenditore thailandese fa un'offerta per il Milan. E partiamo quindi dall'emergenza Libia, che è anche emergenza immigrazione, che è anche emergenza infiltrazioni, rischio infiltrazioni. Oggi ci sono stati nuovi raid egiziani sulla Libia per rivendicare l'uccisione degli ostaggi copti, ma l'Italia è, come dicevo, senz'altro il paese più esposto. Renzi oggi ha comunque ribadito che non è tempo di un'azione militare, posizione che è condivisa anche dalle opposizioni. Palazzo Chigi frena sull'ipotesi di un intervento militare in Libia. Non si passi dall'indifferenza totale all'isteria, ammonisce il presidente del Consiglio Renzi, che invita quindi alla prudenza e ad aspettare le decisioni dell'ONU. Non è il tempo dell'intervento, verificheremo che cosa ci sarà da fare. Se ci sarà una guida delle Nazioni Unite più forte, sarà meglio per tutti. Da 3 anni in Libia la situazione è fuori controllo, dice ancora Renzi, ma la comunità internazionale, se vuole, ha tutti gli strumenti per poter intervenire. È necessario che la diplomazia corra, aggiunge il ministro della difesa Pinotti. Più interventista il nuovo centrodestra, l'avanzata del califfato in Libia, dice Alfano, accentua tutti i profili di rischio. Non si può più perdere tempo, aggiunge Lupi. Diviso il fronte delle opposizioni, Forza Italia garantisce al governo l'appoggio per un eventuale intervento di forze internazionali. No invece dal Movimento 5 Stelle. L'uso delle armi peggiorerà la situazione, ci vada Renzi in guerra, commenta Grillo. Il governo parla a bambera, attacca Salvini. Prima di mandare un solo militare a rischiare la vita, bisogna bloccare gli sbarchi, bisogna prendere accordi sul territorio perché in Libia ci sono 120 tribù. No all'opzione militare anche da Vendola, insensate, dice le parole del governo esecutivo intanto che riferirà domani in Parlamento. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sono rientrati intanto in Italia i lavoratori libici che fino a ieri per anni hanno vissuto il paese, scusate, i lavoratori italiani che lavoravano in Libia. Questo mentre cresce l'emergenza sbarchi a Lampedusa, di cui parleremo più tardi. Per quanto riguarda la Grecia, ultimatum dell'Eurogruppo alla Grecia ha fino a giovedì per decidere se chiedere l'estensione del programma di aiuti in modo da poter avere un Eurogruppo straordinario, una riunione straordinaria dei ministri delle finanze europei venerdì che possa quindi valutare questa eventuale richiesta. L'estensione è l'unica strada, ha detto il commissario Moscovici. La Grecia ha parlato di proposte, invece a questo proposito di proposte inaccettabili da parte dell'Eurogruppo. Cercheremo poi di capire meglio come è andata, vi dicevo, questa riunione piuttosto convulsa. E ora l'attentato di Copenaghen, indagini in corso in Danimarca dopo il doppio attentato che c'è stato sabato, comunità ebraica nel mirino anche in Germania e in Francia. Non avrebbe mai nascosto il suo antisemitismo e in prigione avrebbe accennato al desiderio di andare a combattere in Siria Omar Abdelhamid el-Hussein. Il 22enne accusato del doppio attentato di Copenaghen era legato ad una gang criminale e in passato era stato condannato diverse volte. Non ci sono però prove che facesse parte di qualche cellula terroristica, ha riferito oggi la premier danese Thorning Schmidt. Gli investigatori stanno scavando nel suo passato e hanno arrestato due uomini che prima della sua uccisione lo avrebbero aiutato nella fuga. L'ipotesi più credibile per ora resta quella del lupo solitario. Spinto dalla propaganda jihadista, il giovane avrebbe cercato di imitare gli attentati di Parigi. Bersaglio, ancora una volta, la comunità ebraica. Gli ebrei danesi oggi hanno ringraziato per la solidarietà il premier israeliano Netanyahu, ma hanno respinto il suo invito a trasferirsi in Israele. Lo stesso ha fatto la comunità ebraica tedesca. La sicurezza degli ebrei in Germania è garantita, ha fatto sapere la cancelliera Merkel. In Francia intanto sembra ridimensionarsi la profanazione di un cimitero ebraico nel nord dell'Alsazia. Non sarebbe stato un gesto antisemita, ma un atto di vandalismo, una bravata compiuta da cinque minori, uno dei quali pentito ha deciso di confessare tutto alla polizia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rimaniamo ancora all'estero. Oggi la cancelliera tedesca Merkel, fra i vari temi, ha parlato anche di Ucraina e ha definito fragile la tregua in atto. In Ucraina si continua a morire nonostante la tregua scattata nella mezzanotte tra sabato e domenica. Vicino Mariupol, a quanto si apprende, almeno 5 combattenti pro Kiev hanno perso la vita e 25 sono rimasti feriti. Impossibile per l'esercito di Kiev dare attuazione a uno dei punti concordati a Minsk, cioè il ritiro delle armi pesanti dal fronte di guerra. Come possiamo farlo se i ribelli ci attaccano con i blindati e ci sparano addosso, ha dichiarato il portavoce dell'esercito ucraino. A loro volta i separatisti filorussi denunciano violazioni della tregua da parte delle forze ucraine in alcune località sotto il controllo dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, in particolare nella città di Debaltseve, dove i filorussi chiedono la resa delle forze ucraine. Secondo gli accordi, Debaltseve è nostra, non la lasceremo, ha detto un portavoce dei ribelli, proponendo un corridoio che consenta ai soldati ucraini di lasciare la zona dove gli osservatori dell'OSCE non vengono fatti entrare. Intanto in mattinata sono stati diffusi i nuovi nomi inseriti nella blacklist dell'Unione Europea. Si tratta di due viceministri della difesa di Mosca, Bakhin e Antonov, considerati fiancheggiatori dei filorussi. Russi. Misura illogica e incoerente, ha dichiarato il ministro degli esteri Lavrov, promettendo una risposta adeguata da parte della Russia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriviamo così alla politica italiana. Oggi c'è stata la direzione del PD con Renzi in cerca di unità sulle riforme, alla vigilia dell'incontro che ci sarà domani tra Mattarella e gli esponenti dell'opposizione. Il messaggio non cambia anche dopo l'Aventino, il premier Matteo Renzi lo ribadisce alla direzione nazionale del PD, il dialogo è aperto ma si va avanti per cambiare la Costituzione. Filo del dialogo che può essere tenuto aperto non con un mercimonio di emendamenti, questo non è il mercante in fiera, questa è la carta costituzionale. Il fatto che le opposizioni scappino dall'aula è un fatto negativo, noi vogliamo far sì che rientrino, ma vogliamo anche dirlo, noi non ci facciamo fermare dal tentativo di bloccare tutto. Il cambiamento non riguarda poi solo la carta fondamentale. Renzi annuncia che nel prossimo Consiglio dei Ministri approverà un disegno di legge sulla concorrenza verso una maggiore liberalizzazione. Ci sarà poi la riforma della RAI e del diritto di cittadinanza e spera di ultimare quella sulla scuola entro febbraio. Il PD deve scegliere un racconto possibile per l'Italia e per farlo è necessario però che il PD continui, come ha fatto in questo mese, anche a discutere e a litigare, ma aver chiaro che la responsabilità di rimettere in moto l'Italia passa unicamente da noi. Ma dalla minoranza interna, Stefano Fassina avverte, l'opposizione non è tutta palude, le riforme costituzionali e la legge elettorale non si fanno da soli. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora la cronaca con le indagini in Sicilia sulla morte della piccola Nicole. I punti su cui lavorano gli ispettori sono 5: la stabilizzazione della piccola dopo la nascita, i requisiti della clinica dove è venuta al mondo, l'adeguatezza del mezzo di soccorso per il trasferimento, le comunicazioni tra clinica e 118 e la gestione dei posti letto nelle unità di terapia intensiva neonatale. Accertare ognuno di questi passaggi è necessario per capire cosa sia realmente accaduto tra mercoledì e giovedì scorso, quando Nicole è nata asfittica, cioè con una diminuzione di ossigeno nel sangue, e nel giro di poche ore è morta su un'ambulanza che la stava portando a Ragusa dopo che nessuna struttura di Catania l'ha accettata. 2 invece i filoni dell'inchiesta. Il primo riguarda il decesso della bambina, l'altro la eventuale omissione nella messa a disposizione delle unità di rianimazione neonatale. 9 gli indagati, 5 medici, 2 persone del 118 e 2 di altrettante unità di terapia intensiva. Altra inchiesta aperta e altri 4 medici indagati a Trapani, dove venerdì scorso un bambino di 23 mesi è morto nel reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Antonio Abate, dopo essere stato ricoverato e poi dimesso solo qualche ora prima. Forse una meningite scambiata per influenza. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere il calcio, sono queste ore decisive per il Parma che rischia il fallimento. Entro mezzanotte dovrebbero arrivare parecchi soldi, altrimenti la crisi degenera. E poi c'è, per quanto riguarda il Milan, invece un imprenditore thailandese, da parti asiatiche evidentemente hanno una passione per le squadre milanesi, che vorrebbe comprare il Milan. Poi ne parleremo più tardi di queste due situazioni. Intanto leggo alcuni vostri messaggi sia alla pagina Facebook di Effetto Notte sia sugli sms al 349-238-6666. Vi chiedevo se vi preoccupa la situazione che si sta aggravando in Libia. Mi preoccupa più Putin dell'ISIS, dice un ascoltatore. Poi Giovanni: beh Roberta, in effetti il governo Renzi è un governo terrorista, dice, vabbè, questa è una battuta. Lidia: mi preoccupa la voglia di guerra che c'è nell'Occidente, più Ucraina che Libia. Anche Lidia è più preoccupata dell'Ucraina. Poi Davide: penso che ora come mai non mai l'Italia deve prendere provvedimenti seri di sicurezza interna contro l'ISIS, con o senza la collaborazione di altri paesi. Siamo in pericolo che almeno questo lo vedano i parlamentari. Sergio da Milano: l'ISIS mi preoccupa molto, non perché loro vorrebbero arrivare in Italia, ma perché saremo noi con la politica di Renzi a portarli in Italia. Quello che è successo è no alla nostra la guardia costiera è vergognoso, molto vergognoso, inutile che spinge per un intervento europeo. Il ministro europeo Mogherini non conta nulla, è solo immagine, così dice Sergio. Albert: personalmente non mi preoccupa più niente che vengano pure in Italia, qui c'è posto per tutti, altrimenti che paese libero siamo. L'ironia di Albert. Renzo: l'ONU dovrebbe svegliarsi, che cosa aspetta? Giovanni: cara Roberta, non c'è più Scipione l'africano, purtroppo. E poi qualcuno che scrive sempre tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, a quale potete continuare a fare i vostri commenti. Libia: come sempre dimostriamo atteggiamento che viene interpretato come mollezza estrema, andrà a finire che ci sequestreranno motovedette ed equipaggio e noi pagheremo. Poi altri messaggi, anche quello di Clotilde, prima di aggiornare chi sta viaggiando: certamente ho paura, ma più che dell'ISIS mi fa paura la cialtroneria e incompetenza dei nostri politicanti, tutti, nessuno escluso. Oggi preferirei essere cittadina americana ma anche russa, e ho detto tutto. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme. Vi ho letto moltissimi dei vostri messaggi a proposito della situazione in Libia, della percezione che ne avete di quello che sta succedendo. Continuate pure a fare i vostri commenti, poi intanto li leggerò anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, gli sms al 349-238-6666. Intanto, prima di affrontare il prossimo argomento, vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Renzi frena sull'intervento in Libia, Parigi chiama l'ONU, poi ci sono i nuovi raid dell'Egitto sull'ISIS e l'allarme di Al-Thani, che è il primo ministro libico. La Grecia boccia la proposta dell'Unione Europea, ultimatum però da parte dell'Eurogruppo, che dice Atene decida entro venerdì sull'estensione del programma di aiuti. il Presidente del Consiglio al PD, Renzi, naturalmente sulle riforme va bene il dialogo, ma niente scambi. E poi per il falso in bilancio il governo elimina le soglie di non punibilità. A Copenaghen caccia i complici del killer, due gli arresti. Nel frattempo si riapre il caso di Ilaria Alpi, il super testimone ritratta e dice: l'uomo in carcere è innocente, sono stato pagato per accusarlo. Di questo parleremo tra poco. E poi vacilla la tregua in Ucraina, la cancelliera Merkel dice che la situazione è molto fragile. E per quanto riguarda la morte della piccola Nicole, ispettori in Sicilia, ispettori ministeriali, troppi errori nella morte della bambina. E poi il calcio, il Lega Pro vince Lotito, eletto un consigliere pro, insomma, vicino a lui. Poi parleremo anche di questo. Al momento invece ci concentriamo appunto sulla situazione in Libia, vedo che c'è molto coinvolgimento da parte vostra anche su questo argomento, situazione che ormai da tempo sapete completamente nel caos, fuori controllo, come ha detto anche Renzi, a 4 anni questo dalla rivoluzione del 2011 sulla scia, vi ricordate, delle famose primavere arabe, ci fu questa rivoluzione alla quale però seguì l'intervento militare in Libia di questa coalizione occidentale sempre nel 2011, a marzo di quel l'anno, opera di alcuni paesi aderenti all'ONU, autorizzati da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza. È un paese, insomma, dilaniato dalle lotte tra due milizie, in particolare a questo punto, che è passato da un governo di transizione all'altra e ora con due governi, uno che è a Tobruk, riconosciuto dalla comunità internazionale, e l'altro è a Tripoli, di matrice islamica, e ora con i jihadisti dell'ISIS che hanno preso il controllo di Derna e di Sirte, arrivando a minacciare nelle ultime ore anche l'Italia. Avete sentito che hanno detto: siamo a sud di Roma. L'avanzata islamista in realtà già l'11 settembre 2012 si era fatta sentire in modo particolarmente violento. Vi ricordate, fu assaltato il consolato americano a Bengasi e fu ucciso l'ambasciatore americano Chris Stevens insieme ad altri 3 americani. Allora, coinvolgo su questo argomento e do il bentornato ad Arturo Varvelli. Eccoci qui, buonasera. Buonasera. Responsabile dell'Osservatorio del Terrorismo dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ed esperto di Libia. Quindi già allora, forse è lì, cos'era, il 2012, quando fu ucciso, esatto, il povero console americano, forse, diciamo, l'attenzione occidentale doveva essere già più forte in quel momento, invece sono passati quasi 3 anni. Ma sì, in effetti si è fatto scivolare così, diciamo, in un declivio verso l'abisso tutto il paese. Ci si è prima trincerati dietro all'etichetta e allo slogan della Libia ai libici, subito dopo la caduta di Gheddafi, non considerando che naturalmente c'era sempre stata una partecipazione esterna, esogena, nelle vicende libiche, a cominciare proprio dalla rivolta, i 4 anni or sono, e domani l'anniversario della rivolta, che ebbe subito degli elementi esogeni. E gli elementi di questo tipo arrivarono subito dal fatto che, contrariamente a quanto successe in Tunisia e in Egitto, quella libica fu una rivolta armata, cioè fu una rivolta armata dall'esterno essenzialmente, e ci fu subito, come ha ricordato bene lei, un coinvolgimento delle forze esterne con un intervento della NATO e dei paesi arabi. Quindi c'è una responsabilità dei paesi occidentali e dei paesi arabi nelle vicende libiche, e non si poteva pensare che un paese a digiuno di democrazia da 42 anni, ma che anche prima non aveva vissuto nessuna esperienza democratica, potesse improvvisamente fiorire, diciamo, la democrazia, come invece, diciamo, aveva auspicato Bernard Henri Lévy nella retorica francese pro-interventista di quei tempi. E di fatto fu uno spartiacque l'uccisione dell'ambasciatore americano, perché da lì in poi la comunità internazionale cambiò atteggiamento. Diciamo, dalle elezioni del 2012 che sembrarono consegnare il paese ai laici, ci accorgemmo nel giro di 2 mesi, forse eccessivo anche quello, che la Libia era in mano ai jihadisti. Naturalmente non era vera la prima e non era vera la seconda, come non è vero oggi che tutta la Libia sia in mano all'ISIS, naturalmente. Beh, questa in parte è una buona notizia, Varvelli, però sentiamo a proposito delle richieste di intervento anche dello stesso primo ministro Al-Thani, libico, che ha detto: qui se non intervenite l'ISIS prende completamente il potere. Sentiamo oggi Renzi, che un po' ha frenato sulla possibilità di intervenire. Sta succedendo quello che ormai succede da 3 anni, cioè la Libia è fuori controllo. Noi l'abbiamo detto in tutte le sedi, in tutte le salse, NATO, G7, Consiglio Europeo, continueremo a farlo e a dirlo, perché penso che sia fondamentale che il problema Libia non sia soltanto un problema italiano, ma un problema internazionale. Mi sento però anche allo stesso tempo di raccomandare a tutti saggezza, prudenza e senso della situazione, nel senso che naturalmente la vicenda è problematica, noi stiamo seguendo con grande preoccupazione e attenzione, ma non si passi dall'indifferenza totale all'isteria o alla preoccupazione senza, irragionevole. In Libia la situazione è difficile, ma la comunità internazionale, se vuole, ha tutti gli strumenti per poter intervenire. E a questo proposito, Varvelli, la numero uno della diplomazia europea, Federica Mogherini, ha detto che incontrerà questa settimana le autorità dell'Egitto e degli Stati Uniti. E Renzi ha sentito, dice, la comunità europea ha tutti gli strumenti per poter intervenire. Ha tutti gli strumenti o ancora si trova impreparata rispetto a questa situazione e deve capire cosa fare? No, io purtroppo non penso che abbia tutti gli strumenti per agire. Cioè, ha in linea teorica degli strumenti per agire e questo potrebbe essere fatto unicamente verso una maggior costrizione delle parti a un tavolo delle trattative. Il problema è che non tutti convergono su questa visione, cioè non solamente all'interno dell'Unione Europea vi sono ancora delle differenze, delle diversità, all'interno del nostro stesso governo, dove vediamo una diplomazia, in particolare la nostra ambasciatore a Tripoli, che ha tentato fino all'ultimo una via diplomatica che qualche risultato stava ottenendo, per essere sinceri, perché ad esempio ha portato al tavolo negoziale parte delle milizie di Misurata, che sono delle milizie molto importanti e rilevanti all'interno del governo che noi definiamo islamista. E dall'altra parte però abbiamo un governo, in particolare lo stesso Renzi, che poi ha cercato di dare maggior misura alle proprie dichiarazioni, ma che aveva di fatto cominciato a lanciare allarmi molto preoccupanti sul paese. Certo, la finalità era quella di destare l'attenzione, ma forse sono andati oltre misura. E la stessa Europa ha posizioni variegate, divise. Solamente negli ultimi mesi siamo arrivati a un comune denominatore tra Francia, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti e Italia. E ancor più divise sono le potenze regionali, pensiamo a Turchia e Qatar da una parte, che sponsorizzano il governo di Tripoli, e dall'altra parte invece sempre più forte la pressione egiziana, l'abbiamo visto, ma anche Emirati, Arabia Saudita e anche Russia sempre più favorevoli a un'intromissione egiziana in Libia e all'appoggio del governo di Tobruk, che sembra in questo caso, seppur legittimo, riconosciuto come legittimo dalla comunità internazionale, una sorta di fantoccio nelle mani dell'Egitto. Quindi le intromissioni e le differenze di posizione sono numerose. Non è detto ancora che ci sia una linea comune, e io penso tutto sommato che la linea comune non possa essere quella di appoggiare un'intromissione egiziana all'interno del paese. Sentiamo quale potrebbe essere una linea secondo Renzi, o meglio, chiede un Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Sentiamo. La visione del governo è una sola e tutti la condividono, compresi i ministri. La proposta è questa, è quella di aspettare che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite lavori un po' più convintamente sul tema della Libia. È comprensibile anche che per le organizzazioni internazionali non sia semplicissimo il problema della Libia. Hanno l'Ucraina, hanno la Siria e l'Iraq, hanno il Medio Oriente, hanno tante questioni aperte. Io sono assolutamente certo che la forza delle Nazioni Unite è decisamente superiore a quello delle milizie radicali. Per chiudere, Arturo Varvelli, le pare che sia una buona posizione quella del Presidente del Consiglio italiano? Diciamo far dipendere un possibile intervento da naturalmente organismi internazionali che legittimino l'azione, ma lo sarebbe ancora di più, e mi sembra l'unica via, farlo dipendere dal fatto che prima si concretizza un cessate il fuoco nel paese e che prima si concretizza la creazione di un governo, diciamo, nazionale di unità esterno a queste parti in conflitto. Ossia ci vuole ancora un lavoro diplomatico sul tavolo negoziale, perché andare senza un accordo tra le parti, tra almeno alcune delle fazioni libiche, non è detto che poi lo rispettino dal piano politico al piano militare, ma almeno trovare un accordo politico tra alcune delle fazioni ci garantirebbe il fatto che noi non arriviamo laggiù e veniamo e ci trasformiamo immediatamente nel primo bersaglio, cosa che sarebbe facilissima se noi andassimo senza questa prerogativa, diciamo. Grazie Arturo Varvelli. A presto. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Intanto, come si diceva anche prima, dalla Libia continuano a partire verso le coste italiane altri barconi di migranti. Nelle ultime ore sono arrivati anche i nostri connazionali che hanno lasciato il paese africano, ma il problema dell'immigrazione fuori controllo si aggiunge al rischio di infiltrazioni di terroristi. Secondo, infatti, i servizi segreti, flussi migratori e minacce jihadiste in Libia formano una miscela che costituisce un unico pericolo per il nostro paese. Si apre quindi per il nostro paese un doppio fronte di emergenza, perché, come se non bastasse, molti miliziani, dopo la caduta del regime di Gheddafi, gestiscono traffici illeciti, primo fra questi quello che riguarda i clandestini. Ne parliamo tra pochissimo con Raffaella Calandra, però ne vorrei anche riflettere, vorrei rifletterne con un amministratore locale che questa situazione la vive costantemente sulla sua pelle, quella dell'immigrazione, del problema anche di flussi continui, non più contenibili, che è Luigi Ammatuna, che saluto, sindaco di Pozzallo, vicino a Ragusa. Buonasera sindaco. Buonasera. Che giornate sono queste per lei, per il suo paese? Sì, sono dei momenti un po' delicati, perché dopo che è finito il maltempo, ce lo aspettavamo, arrivano a ripetizione. Nel giro di 3 giorni abbiamo avuto 3 sbarchi, 2 solo oggi, e quindi abbiamo il centro che è colmo con 600 persone circa, però ormai c'è una organizzazione abbastanza data e quindi non abbiamo difficoltà a gestire questi sbarchi. Siamo seriamente preoccupati per quello che sentiamo in televisione, per le notizie che arrivano, per possibili infiltrazioni di terroristi, ma vediamo che le forze dell'ordine, tutte, polizia, carabinieri, guardia di finanza, controllano bene il territorio, fanno della identificazione più attenzione del solito, e quindi in questo senso siamo comportati. Quindi, sindaco Ammatuna, vi sentite abbastanza tranquilli per il momento e con la situazione sotto controllo, nonostante appunto tutti questi sbarchi? Sì, no, è inutile ingenerare panico nella cittadinanza, perché non c'è motivo di farlo, sarebbe una miscela che potrebbe scapparci di mano, e quindi siamo sostanzialmente tranquilli, non c'è problema. Vedremo lo svolgersi dei fatti, vediamo che cosa succederà. Noi siamo fiduciosi. Io ho il compito morale, il dovere morale di accogliere questi migranti. Per il resto ci pensi il governo nazionale, ci pensi l'Europa. Io devo fare solo accoglienza, questo è quello, è il mio compito. E allora buon lavoro, sindaco Ammatuna. Grazie a lei. Grazie. Ne continuiamo a parlare però di quello che sta succedendo, e soprattutto di questo rischio di infiltrazioni di terroristi, come dicono i servizi segreti, ed effettivamente dicevamo l'Italia è piuttosto esposta, con Raffaella Calandra, che è lì per noi, inviata in Sicilia. Ciao Raffaella. A te e ai nostri ascoltatori. Raffaella, quindi insomma, il sindaco Ammatuna per il momento sembra piuttosto tranquillo, anche se i centri d'accoglienza sicuramente in Sicilia sono in grosse difficoltà. Diciamo che loro ci sono abituati ad essere in frontiera, perché Pozzallo, così come Augusta, dove sono adesso, sono di fatto il secondo avamposto dopo Lampedusa. Cioè, se Lampedusa è la prima linea dell'Italia, Pozzallo e Augusta vengono subito dopo, non solo perché qui vengono trasferiti gran parte dei migranti che vengono soccorsi al largo di Augusta, ma molti altri arrivano anche qui, per cui nel corso degli anni, diciamo volente o nolente, hanno dovuto effettivamente mettere a punto la macchina organizzativa di cui parlava il sindaco, però in questo momento è comunque una macchina diciamo molto sotto pressione, perché nelle ultime ore nel canale di Sicilia sono state soccorse 2.000 persone. Si tratta di numeri che, considerando la situazione della Libia in questo momento, fanno ritenere agli esperti, diciamo, a chi analizza, a chi conosce la situazione e i flussi migratori, che queste sono cifre che sono destinate ad aumentare nel giro di poche ore. Laddove appunto, come dicevamo, questa emergenza sbarchi ha un'altra faccia che non è ancora del tutto nota, che è la faccia legata proprio alla minaccia dell'ISIS, perché sappiamo perfettamente come il traffico dei migranti sia una delle principali attività di sostentamento del califfato, sappiamo perfettamente, perché anche gli ultimi arrivati hanno raccontato anche di come siano stati costretti a partire nonostante il brutto tempo, le cattive condizioni del mare, e tutto questo sono tutti segnali che ci fanno capire come la situazione di totale, diciamo, anarchia in questo momento in Libia lascia presagire un arrivi in continuazione di nuovi migranti, oltre a grande rischio, la grande possibilità che tra le migliaia di profughi che sono in partenza, si calcola che siano circa 200.000, possono essere infiltrati anche, diciamo così, dei lupi solitari, vogliamo chiamarli, cioè delle singole persone che possono essere intenzionati a qualche gesto, a qualche attività, diciamo, di tipo terroristico. Evidentemente la sicurezza è più che rafforzata, ma questa possibilità sta rendendo in queste ore estremamente complicato il lavoro di chi in mare sicuramente ha come primo obbligo quello di soccorrere i profughi, però esiste anche questa possibilità e quindi i controlli sono più che rafforzati. Io sono ad Augusta, dove ieri sono arrivati i primi italiani sbarcati, evacuati appunto dalla Libia, altri ancora lasceranno il paese nelle prossime ore, mentre queste sono ore di lavoro non stop nel canale di Sicilia, perché appunto una nave arriva e un'altra subito viene avvistata, quindi una emergenza che di sicuro dà l'idea di quanto la situazione libica si rifletta prima di tutto sull'Italia e l'Italia, Lampedusa, Pozzallo, Augusta sono il primo avamposto, diciamo. Grazie Raffaella Calandro e buon lavoro lì in Sicilia allora. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, ciao. Ciao. Ancora molti vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Bianca che dice sono abbastanza preoccupata, Enrico dice di essere preoccupato, Elena sinceramente sì, quando il nemico è sconosciuto e crudele e non si sa da chi è manovrato, un po' di paura ti viene. Corrado sì, ma spaventa di più l'incredibile rimozione generalizzata del perché siamo arrivati a questo punto. Un ventennio di missioni di pace ed esportazioni di democrazia, tra virgolette, hanno creato solo odio verso l'Occidente, sarebbe bene almeno prendere la nostra parte di responsabilità prima di combinare, dice, altri disastri. Noi intanto ci prendiamo una pausa di riflessione e ci ritroviamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberta Giordano, sempre con voi con me anche attraverso i vostri messaggi, tantissimi. Non pensavo davvero sulla situazione della Libia e la percezione che ne avete e le riflessioni che state facendo. Eloisa scrive: cara Roberta, Parigi e la Danimarca penso ci insegnino che basta un solo invasato per fare una strage, contrastare il loro marketing dell'orrore che esalta tanti cani sciolti, non sarebbe meglio dei bombardamenti? Insomma, non sempre facile. Alberto da Mirandola: penso che questa apprensione sia già il risultato del logorio più che dell'allarme che questi delinquenti vogliono generare. Vorrei tuttavia ricordare che non solo l'ISIS è a sud di Roma, ma anche Cosa Nostra e l'Andrangheta, questo senz'altro, queste sono due questioni diverse. Emanuele dice: l'ISIS è alle porte, noi facciamo finta di non essere in casa. E poi moltissimi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. C'è Giancarlo che dice: ha ragione in toto Matteo Salvini, che è contrario come le opposizioni a un intervento. Manuel: era nostra, i francesi hanno fatto i fighi, ci hanno fatto fuori il nostro, insomma, vabbè, anche qui con un po' di ironia, un po' pesante. Di Manuel: Ataru, questa situazione temo porti a tenere uno stato di attenzione più alto, ad armare maggiormente le forze dell'ordine, la qualcosa verrà utile di giorno in giorno per lottare contro eventuali manifestazioni di disagio come i taser ipotizzati mesi fa, cioè quelle pistole elettriche dei vigili urbani. Sempre quando la società si impoverisce lo Stato si arma. Qui cominciano un po' di dietrologie, un po' di ipotesi, non so quanto fondate. E poi Giorgio: quanta violenza ci sarà ancora? Lorenzo: ma se l'ISIS dovesse raggiungere la Sicilia, il Movimento 5 Stelle spero sia d'accordo col difenderci. Voi che dite? Ma non so se basterà solo un movimento, un partito. Insomma, tanti messaggi, ognuno così dal proprio punto di vista, le proprie angolazioni, a volte anche piuttosto originali. Adesso però ci occupiamo, naturalmente vi riassumo le notizie della giornata e poi ci occupiamo di un'altra questione in particolare. Silvia, Renzi frena sull'intervento e invita la cautela. Prosegue intanto l'emergenza immigrazione, bombardamenti egiziani sulle postazioni dell'ISIS. Grecia, l'Eurogruppo lancia l'ultimatum, decida entro venerdì, ma il governo greco definisce assurde le richieste. La riunione del PD sulle riforme, Renzi dice sono aperto al dialogo ma no al do ut des. L'attacco a Copenaghen caccia i complici, intanto i complici del killer naturalmente sono stati intanto arrestate due persone. A Catania sono 9 gli indagati per la morte della piccola Nicola, ispettori ministeriali e regione al lavoro. Parma, sono ore decisive per la squadra che rischia davvero il fallimento. Europa 24 notte. E anche nello spazio europeo ritorniamo sulla questione, la doppia questione immigrazione ISIS, perché l'Italia chiede il rafforzamento della missione Triton, dell'operazione europea, un rafforzamento di monitoraggio del mare, un rafforzamento oggi più che mai necessario con l'acuirsi della crisi libica e delle minacce dell'ISIS. Il ministro degli esteri Gentiloni ha inviato una richiesta ufficiale all'Unione Europea per sollecitare più mezzi e più risorse, ma intanto continuano le polemiche sui limiti di questa operazione rispetto alla missione Mare Nostrum. Sentiamo allora Patrizia Toia, capo delegazione degli eurodeputati del PD, al microfono di Alessandra Schepisi. Da tempo, diciamo, in molte sedi l'Italia l'ha detto, sia il governo che noi in Parlamento, che il problema dell'immigrazione ha un pezzo che è accoglienza indispensabile, qui ogni paese europeo ha fatto la sua parte, adesso l'Italia è esposta, ma negli anni ogni paese europeo si è fatto carico di accogliere i rifugiati, ma dicevo non è solo un problema di accoglienza, è un problema di andare all'origine di questi flussi e quindi di occuparci di quello che accade nei paesi da cui partono, stabilendo lì qualche base dove è possibile per dei corridoi umanitari, per far sì che questo flusso migratorio non sia così carico di tutte le tensioni, i rifugiati, immigrati, profughi e persone che scappano dalle guerre, insomma, per trovare delle soluzioni più capaci di agire all'origine del fenomeno e al punto di partenza. Da tempo noi chiediamo questo. Un Mare Nostrum europeo? Sì, potrebbe essere anche un Mare Nostrum europeo. Con Triton l'Europa si è fatta carico almeno di una responsabilità. Ha detto il problema è anche mio e questo è il lato positivo. Però sta rivelando troppo limitata rispetto alla dotazione di persone, alle possibilità di agire Triton rispetto a quello che sarebbe necessario. Quindi sicuramente un potenziamento, una specie di Mare Nostrum europeo potrebbe essere una tappa. Ma come ripeto, il problema non è solo quale accoglienza si fa qui, quale possibilità di intervento di emergenza, il problema è andare nei paesi da cui partono per trovare lì delle soluzioni più umane, oltre che più razionali, ma più umane soprattutto per le tragedie di queste persone. E in questo senso, secondo lei, l'Europa ha fatto poco? C'è qualcuno che l'accusa di disattenzione? Il Mediterraneo, insomma, non sarebbe tra i dossier principali di Bruxelles? Da parte dell'Europa c'è stato uno scarso investimento politico, di relazioni, di cooperazione con il Mediterraneo. Il tema del Mediterraneo è stato ampiamente sottovalutato dall'insieme dell'Unione Europea, non certo dall'azione dell'Italia in Europa o dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Quindi è assolutamente necessario che la priorità, l'ha fatto Matteo Renzi questa richiesta nell'ultima riunione informale del Consiglio informale, certamente la farà nel Consiglio formale, il Mediterraneo deve diventare, che non è solo la Libia, ma tutto il Mediterraneo, deve diventare la priorità dell'Unione Europea accanto a quella che è stata in questi giorni l'Ucraina, perché è a est e a sud dell'Europa che ci sono tensioni e faglie di conflitto e quindi come dobbiamo pensare ai nostri confini a est e ai vicini dei vicini, così dobbiamo pensare al Mediterraneo. Oggi si concentra sulla Libia, ma un'azione in Libia va preparata anche lavorando con tutti gli altri paesi che si affacciano sulla sponda del Mediterraneo, perché questi paesi sono interessati a ricercare un'azione di stabilizzazione, o se invece sono interessati alla destabilizzazione bisognerà che venga smascherato, diciamo tra virgolette, questo gioco, queste connessioni. Quindi è tutto il Mediterraneo che deve essere assunto nelle priorità dell'agenda politica europea e certamente tutti noi lavoreremo in questo senso. Se c'è uno spazio ancora per il compimento dell'azione diplomatica che è guidata da Bernardino León, se c'è uno spazio di creazione di una missione che non necessariamente deve essere una missione militare, ma può essere una missione che cerca di trovare le forme più opportune, lo decideranno i responsabili, per creare un minimo di stabilità, perché si possa riprendere il filo di una creazione, diciamo, di relazioni per costruire appunto uno Stato che possa chiamarsi tale, questa deve essere la strada da percorrere. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccovele in breve le notizie con Renzi a proposito della crisi libica che frena sull'intervento, ma cerchiamo di trattenere gli isterismi. Dice Parigi intanto chiama l'ONU e ci sono nuovi raid dell'Egitto sull'ISIS. La Grecia che boccia la proposta dell'Unione Europea, Eurogruppo però intanto dà alla Grecia un ultimatum, decida entro venerdì. Poi la direzione del PD, Renzi dice sulle riforme il dialogo ma niente scambi, e poi per il falso in bilancio il governo elimina le soglie di non punibilità a Copenaghen e caccia ai complici del killer. Si riapre il caso di Ilaria Alpi, tra poco ne parleremo. Poi vacilla la tregua in Ucraina, Merkel parla di una situazione molto fragile, gli ispettori in Sicilia per la morte della piccola Nicole dicono troppi errori. E ora a proposito di Grecia, di Eurogruppo, ne parliamo con Salvatore Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Chicco. Ciao, buonasera. Possiamo dire che è stata una seduta molto tesa quella dell'Eurogruppo, alla fine mi pare che non sia uscito contento nessuno, non c'è un accordo, la Grecia che dice ci fanno richieste insostenibili, l'Eurogruppo che ha dato un ultimatum, o si decide entro venerdì di un'estensione degli aiuti o... Che succede? Sì, sì, è insomma un bel problema, la situazione si sta un pochino complicando, la cronaca di oggi l'hai raccontata perfettamente tu con questa riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles che però non ha portato a un nulla di fatto, la sensazione è che questo negoziato si trascinerà anche nei prossimi giorni, ma dobbiamo anche capire che in realtà qui siamo davvero di fronte a una questione molto delicata, no? Perché c'è in gioco un po' anche, come dire, la politica dell'Europa nella gestione del risanamento dei paesi. Per diciamo semplificare al massimo cosa accade, cioè la Grecia chiede di uscire dai piani di salvataggio sottoscritti tra il 2009 e il 2010 e poi nel 2011-2012. Perché le comporterebbero troppi sacrifici? Troppi sacrifici da un lato, ma anche perché, non scordiamolo, il partito che è Siriza attualmente, che ha vinto le elezioni, ha promesso agli elettori di cambiare questo programma. L'Europa invece al momento dice che la strada migliore per sostenere, per aiutare la Grecia è che la Grecia concluda il suo programma e si impegna l'Europa stessa a usare la massima, diciamo, flessibilità. Ecco, su questo aspetto i due, insomma, seduti al tavolo delle trattative, cioè l'Eurogruppo da una parte e la Grecia dall'altra, si sono spaccati, no? Atene, appunto, che deve in qualche modo, come dire, rispondere al proprio elettorato, ritiene che questo approccio dell'Unione Europea non sia corretto. L'Unione Europea invece dice che le misure possono, diciamo, questo accordo che attualmente il governo greco deve rispettare, le misure possono essere sostituite con altre misure, però ci sono alcune condizioni che non possono venire meno, cioè nessuna decisione unilaterale presa solo dalla Grecia e nessuna marcia indietro sugli accordi con i creditori. Che cosa succederà nei prossimi giorni? La sensazione è che si andrà avanti a trattare. Varoufakis, che è il ministro delle finanze greco, ha detto nel pomeriggio che è sicuro che questo ultimatum che l'Europa, l'Eurogruppo ha dato alla Grecia, in base al quale la Grecia dovrebbe decidere entro le prossime 48 ore se accettare o no la prosecuzione del programma, Varoufakis dice che è sicuro che invece l'ultimatum verrà ritirato, eccetera, e che una soluzione molto interessante, dice, anche semantica, accettabile per tutti, verrà trovata. Già e la soluzione semantica sul fatto di eliminare il termine di troica interessante, questo, sì. Insomma, la dice lunga su come la questione sia delicata anche sotto quel profilo. Certo. Grazie Chicco Padula. Grazie, buon lavoro. A voi. Ciao, ciao Chicco. Ciao. Ancora Ancora tanti messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte sulla Libia, anche al 349-238-6666. Ligio dice: i soliti alibi per iniziare un'altra guerra e arricchire i soliti bugiardi. Adriana dice: mi spaventa che siano politici di provata incompetenza a fronteggiare la situazione. E poi Bruno: prima Saddam, poi Gheddafi e il tentativo di far fuori Assad, ecco il risultato dell'export made in USA, un continente destabilizzato per decenni. Ma adesso occupiamoci, vi dicevo, dell'annosa vicenda dell'uccisione dell'inviata speciale della RAI, Ilaria Alpi, del cameraman Miran Rovatin. Furono uccisi, vi ricordate, il 20 marzo del 94 in un agguato a Mogadiscio in Somalia, una Somalia dilaniata dalla guerra civile, dominata dalla violenza, dai traffici illegali, dal caos. Un duplice omicidio rimasto comunque un mistero in cui si intrecciano trame internazionali, depistaggi vari, false testimonianze. Pare che Ilaria stesse conducendo delle indagini su presunti traffici illeciti di armi e di rifiuti tossici che avrebbero coinvolto anche l'Italia. Per questi omicidi, dopo anni di indagini, l'unico colpevole riconosciuto è Hashi Omar Hassan, arrivato a Roma per testimoniare sulle presunte violenze di militari italiani ai danni della popolazione somala, poi arrestato, rinviato a giudizio, prima assolto in primo grado, condannato all'ergastolo in secondo grado, poi in terzo grado a 26 anni. Ma potrebbero esserci delle novità, così anticipa Chi l'ha visto, che andrà in onda mercoledì sempre su Rai 3 naturalmente. E per noi a raccontarlo c'è Chiara Cazzaniga, appunto, di Chi l'ha visto, inviata di Chi l'ha visto, che ha intervistato chi? Chiara, buonasera. Buonasera, io ho intervistato Ahmed Ali Rage, detto Gelle, ovvero il super testimone, cioè colui che ha indicato in Hashi Omar Hassan l'assassino di Ilaria Alpi. In realtà Gelle, raggiunto da noi, ci ha raccontato un'altra storia, ovvero che lui non era sul posto dell'omicidio, lui non ha visto niente, è stato avvicinato da alcune persone che, proponendogli dei soldi e una fuga dalla Somalia in guerra, come ricordavi tu, gli hanno proposto appunto di indicare un colpevole per questo omicidio. Quindi tu sei l'unica che è riuscita a raggiungerlo, no? Tu, inviata di Chi l'ha visto, questo Ahmed Al Raj, che era stato il super testimone, e adesso invece dice: io sono stato pagato per accusare quest'uomo che è in carcere. Lui non dice esattamente questo, lui dice: mi hanno promesso dei soldi, ma dato che io non ho portato a termine il lavoro, perché in realtà Gelle ha testimoniato davanti al PM Junta e alla Digos, ma al momento del processo, quando doveva indicare il colpevole dell'omicidio, in realtà era già scappato Gelle, quindi non avendo terminato il lavoro non è stato pagato, gli avevano promesso dei soldi. Gli avevano promesso dei soldi. E a questo punto, Chiara, te che impressione ha fatto? Certo, difficile dirlo, no? È difficile valutare, sono passati tanti anni, insomma, tanti colleghi si sono occupati della vicenda prima di me, quindi non penso nemmeno stia a me giudicare. Però posso chiederti, secondo te, cosa hai pensato? Che interesse può aver avuto questo Gelle dopo anni a farsi risentire, a dire è innocente quell'uomo in carcere, secondo te? Lui racconta che insomma, ogni volta quando va a dormire se lo vede davanti. Quindi uno scrupolo di coscienza. Un rimorso di coscienza e poi altre cose che stiamo valutando, ecco, perché ci ha raccontato molte cose. E il resto, con Chiara Cazzaniga, quindi mercoledì è Chi l'ha visto. Aspettiamo mercoledì sera. Sì, grazie. Chi l'ha visto. Grazie, grazie a voi. Ciao, buona continuazione. Ciao. E ora invece andiamo al travaglio del Parma con il nostro Dario Ricci. Proprio ore contate, Dario. Sì, ore contate, cara Roberta, perché il nuovo boss del Parma, Manenti, ha promesso entro la mezzanotte di fare i pagamenti degli stipendi, soprattutto degli ingaggi dei giocatori e poi degli altri dipendenti della società, per evitare da parte dei giocatori la messa in mora e quindi poi ulteriore penalizzazione in classifica e anche poi di fatto l'anticamera del fallimento, ma ancora di questi soldi non se ne vede traccia. E probabile e sperabile piuttosto che arrivino domani, ma domani c'è anche l'incontro dei giocatori con l'Assocalciatori per la messa in mora, quindi sarà una un rincorrersi un minuto dopo l'altro per vedere se si farà in tempo a salvare questa squadra che, lo ricordiamo, appena ieri all'Olimpico ha dato prova di grandissima dignità strappandolo 0-0 alla favoritissima Roma. Quindi sul campo i ragazzi di Donadoni ce la stanno mettendo tutta e soprattutto stanno salvando la faccia. Fuori è situazione quanto mai critica, a dir poco. Dario Ricci, sono pochi 45 secondi per dire come mai è arrivata a questo punto Parma? Sì, sono davvero pochi, ma ci sono stati una serie di travagli societari che hanno portato la società appunto a questo punto. Vediamo quanto sarà credibile e affidabile Manenti e incrociamo le dita soprattutto per la credibilità del Parma e del campionato, per il futuro del Parma e la credibilità del campionato. E uniamoci a questo appello, a questo invito. Grazie Dario Ricci. Noi adesso ci uniamo per fermarci qui, poi come al solito vi ricordo più tardi, tra poco, anzi, le notizie più importanti.